Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Dallo studio dell'emittente radiofonica Rock FM. Trasmettiamo Eclettica! Cari ragazzi, buon pomeriggio. Il programma Eclettica. Rubrica dedicata ai problemi tecnici dell'agricoltura. Di e con Giulio Caperdoni. Inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive. Da parte mia, a tutti voi, l'augurio di una buona visione. Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buon pomeriggio. Buonasera. Sera. Sera. Sera. Tra qualche istante vi trasmetteremo a colori Eclettica! Eclettica! Eclettica! Andrà in onda tra qualche istante Eclettica! Signore e signori, vi auguriamo buonanotte. Buonanotte. Buonanotte. Un benvenuto a tutti voi, dall'altra parte rispetto a questo microfono che mi trovo di fronte alla bocca. Tutti voi, eclettiche, eclettici, o anche a chi stia passando da queste parti per caso, con la speranza che magari decida di fermarsi. È Giulio Caperdoni come tutti i giorni, fra le 19 e le 20, con Eclettica, dotata di sua playlist disponibile per tutti da fine settimana. Ogni fine settimana la playlist è disponibile su myspace.com/eclettica oppure direttamente nella casella di posta di chi è iscritto alla lista nera. E per farlo è semplicissimo. Basta mandare un mail a giulio@radiorockfm.com. Con la fronte corrugata e la bocca socchiusa, Ogata Shingo sembrava rincorrere qualche pensiero. O forse agli altri non dava l'impressione di uno che pensasse. Aveva un'aria quasi triste. Suo figlio Shuichi se n'era accorto, ma essendo abituato a vederlo in quel modo, non se ne preoccupò. Capiva non soltanto che suo padre pensava qualcosa, ma che stava cercando di ricordarsi qualcosa. Shingo si era tolto il cappello e, tenendolo tra le dita della mano destra, lo pose sul ginocchio. Senza dir nulla, Shuichi prese il cappello e lo mise sulla rete portabagagli del treno. Questo era l'incipit de Il suono della montagna di Yasunari Kawabata. Yes, Mr. Daly. Yes, was she deaf? Was she deaf? No, she was not. Yeah, she does seem a little bit sort of unresponsive. That's because she's a statue. Farà più male, dimmi che la pioggia oggi non cadrà, dimmi che qualcuno fermerà la guerra, che il conto da pagare non arriverà. Mentimi, mentimi, mentimi, voglio un'altra bugia, voglio che sembri vera. Qualunque sia, mentimi, mentimi, mentimi, voglio un'altra bugia, voglio un lieto fine, qualunque sia. Non me ne voglia, chi ascolta Eclettica fedelmente sa bene dell'esistenza del podcasting, ma io ci tengo a ripeterlo spesso, in quanto magari chi passa da queste parti per caso può così scoprire di ascoltare qualcosa che si è perso, una spiegazione, un brano intero di cui ha sentito solo la coda, un intero volume di Eclettica che si è perso. Tutti i dettagli del podcasting su myspace.com/eclettico oppure sul sito istituzionale della radio www.radiorockfm.com. Quest'oggi ho aperto con una doppietta tutta italiana, anche se in effetti il primo brano era una cover di I Wanna Be Your Dog, però era un estratto dal primo album di lunga durata dei Don Turbolento. Abbiamo poi proseguito con Quello che il nuovo disco dei La Cruz, di cui ho parlato settimana scorsa, Mentimi, è il brano che si è appena chiuso, e passiamo invece ai Foot Village, formazione di Los Angeles che ricorda altre esperienze come per esempio quella dei Tambour du Bronx, un album in uscita il 10 di marzo intitolato Friendship Nation, dal quale io vado ad estrarre Protective Nourishment. Usciti dalla lunga galleria di confine, si era già nel paese delle nevi. Il fondo della notte si tinse di bianco. Il treno si fermò alla stazione. Un scambio. Aveva la faccia avvolta dalla sciarpa fino al naso e un berretto di pelluccia che arriva le orecchie. Stava lentamente nella neve con una lama. Questo era da imbalino. Aveva la paese delle nevi di Yasuta avvolta ricca la sciarpa fino al naso e un berretto di pelluccia che copriva le orecchie. Questo era l'incipit del paese delle nevi di Narikawabat. Yes, I did, fathead. Lots and lots of gum gum gum gum. Minuti alla chiusura, manciatura della prima minuta del chiusura di quest'oggi del GD, prima parte del volo ecletica, poi ce ne saranno questo alto GD eclettica, poi ce ne sta, ci siamo ascoltati tanti tratti di ta, ci non abbiamo ascoltato tanti santi usciti, non mi più in dal terrestre silenti usciti nell'ultimo partito per io se breu per noi, ultimo ria per io altare bad boss lad da per te dei poi big. Tape fria maschione dovrebbero edli la di parte dei chiudiamo big tutti gli effetti per questa prima parte con un menu clone e chiudiamo tutti gli effetti dalle città di questa prima parte con un nuovo che viene dallo dallo sono un tracciotta tutto al femmine di sci e le schermano feel slow non tala e in sì e questa era loro sai che sono un trindico tutto al femminile si chiamano slow down tala e sì e questo